Siete tutti convocati. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Bella, bella, bella, bella. Al limite mette il cross morbido, arriva Berezuski di testa e piazza il pallone in porta. Ha pareggiato la Russia, ha pareggiato nel recupero. Modric al volo, all'improvviso il genio, il folletto, il numero 10, Luka Modric. 1-0 per la Croazia, un grande gol di un grande giocatore. Col senno di poi no, e in quel momento lì, visto il degrado che avevano le gomme, sì, però è andata così. Non puoi essere soddisfatto, però devi guardare avanti. C'è la consapevolezza però che la velocità c'è, questa vicina alle Mercedes, vicinissimi? Indipendentemente dalla velocità ci deve essere la vittoria, quello è importante. Tchaikovsky, il tocco per Milik, Milik! Polonia 1, Irlanda del Nord 0 al 51esimo, la firma di Arkadiusz Milik! La firma di Arkadiusz Milik! Dall'altra parte la Germania, Schweinsteiger la chiama dentro, anche Müller, eccolo il cross, Schweinsteiger! Bastian Schweinsteiger entra e chiude la partita! Vediamo tutti quanti che domani sia una bella partita. Penso che i guerrieri in campo siano 46, 23 nostri, 23 loro. Non penso che ci siano solamente guerrieri da una parte, ma sono manifestazioni talmente importanti che senti talmente la tua nazione che ti soffia, no? Dietro, che io penso che tutti quanti comunque metteremo quel qualcosa in più per essere guerrieri da una parte e dall'altra. Oh, non so cosa ne pensate voi, ma dopo il fine settimana in cui la Ferrari ha buttato via per l'ennesima volta per questioni di strategia una vittoria possibile, un fine settimana in cui abbiamo cominciato ad osservare e a pesare le favorite dell'Europeo, e poi mi piace sapere anche che cosa ne pensate. Beh, dopo questo fine settimana, a me questa vigilia di Italia-Belgio, vigilia da Italia guerriera sfavorita con tutto contro, tranne il fatto di aver forse poco da perdere per la prima volta nella storia recente del nostro calcio, a me tutto questo piace da morire. Oggi è il primo giorno della verità del nostro europeo, Lione ore 21, Italia contro Belgio, la nostra difesa e il nostro animo da guerrieri. Lo avete sentito, Antonio Conte contro il talento di Hazard, di De Bruyne, di Witzel, di Lukaku, contro la solidità di Fellaini, di Nainggolan, contro le parate di Courtois. Insomma, 800 24 00 24, se volete stare con noi fino alle 15:30 vi prenotate per intervenire. 800 24 00 24, voglio raccogliere le vostre sensazioni e il vostro pronostico a 7 ore da Italia-Belgio. 349 238 6666, se volete scrivere sms e whatsapp. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bene, a me piace da morire questa vigilia, eh? Vabbè, certo, figata pazzesca, è ovvio. Stasera gioca la nazionale, l'europeo sta entrando nel vivo, c'è, insomma, c'è giusta adrenalina, è giusto entusiasmo. Vediamo ovviamente che succede. Il Belgio è una squadra fortissima, a parte la difesa dove siamo più forti noi, poi il portiere dove alla fine ce la caviamo, no? Con quel monumento vivente che è Gigi Buffon, però sono bravi anche loro qua. Sì, anche Azenga ha detto che Courtois è il nuovo Buffon. Beh, insomma, si può stare come paragone, perché Courtois è veramente fortissimo. E poi a centrocampo in attacco, per motivi un po' di periodo e un po' anche di contingenza, con i troppi infortuni che abbiamo avuto appunto a centrocampo, sono sulla carta più forti di loro. Però insomma, io ieri nelle dichiarazioni di Conte hanno rincuorato, mi hanno dato fiducia ulteriore, ho fiducia in questo allenatore, in questa squadra. Ti porto i saluti di Cesare Brandelli, che ho incrociato stamattina, che è in silenzio e in attesa. In silenzio stampa, però dice faremo prestazioni. Ti svelo che l'avevamo invitato anche per ieri, ma insomma non è il momento. l'ho incontrato stamattina, mi ha fatto da maestro di golf, che ieri ho iniziato a giocare, scalli da tutte le parti, e devo dire che insomma l'unico virgolettato che posso dire, cioè, l'unico cosa di calcio che abbiamo detto è che è convinto che faremo prestazione, che venderemo cara la pelle, che sicuramente l'Italia c'è. Ma lui comunque questo tipo di atmosfere le conosce molto bene, ma credo che sia nella logica delle cose. Noi abbiamo una squadra che è veramente molto che è l'Italia, quindi storicamente, soprattutto nelle situazioni in cui non hai favori del pronostico, fa il 101% di quello che ha. Poi se quello che abbiamo sarà oggettivamente troppo poco, qui il rischio può essere questo. Sì, c'è un po' di leggenda dietro questa cosa, che noi spalle al muro da sfavoriti ce la caviamo sempre. Non è vero, però mai come questa volta. Io torno indietro con la mente, ma torno fino all'82, prima delle partite col Brasile, con l'Argentina. Anche allora c'era lo stesso clima, un po' da depressione, e queste sono vigilie che agli italiani piacciono. 800 24 00 24, c'è il traffico, ma ti leggo qualche messaggio che è arrivato subito. C'è chi dice vinciamo 1-0, segna Zaza entrando dalla panchina. C'è chi dice vince il Belgio 2-0, questo è Luca via WhatsApp. Chiedono anche perché il Belgio è più forte. Amico, basta leggere la formazione. C'è chi ricorda che stasera c'è Milano-Reggio Emilia, o meglio Reggio Emilia-Milano, gara 6 della finale Scudetto, che è stata messa in contemporanea con Italia-Belgio. Però domani vedremo di trovare il tempo, Giorgio De Luca, di parlarne, soprattutto se si chiude la serie. 800-24-0024, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è tutto questo, diciamo, entusiasmo e tutta questa fiducia nei confronti della nazionale. Ritengo che possano essere anche valutazioni corrette in questo momento, però dico anche che sta a noi meritarcela e sta a noi conquistarcela sul campo. Noi dovremmo essere bravi ad arrivare dove meritiamo di arrivare, senza rimpianti. Questo non significa tutto, significa niente. Significa primo turno, significa essere eliminati al primo turno, significa finale o semifinale. Sicuramente nessuno più del mister, ecco, ci può insegnare, ci può inculcare la parola vittoria nel nostro dizionario, inculcarla nella nostra testa e insegnarci come si raggiunge, qual è la strada, il percorso da fare per poterla conseguire. Oh, è bello come la stanno prendendo, Pierre, i nostri amici a casa. Ti leggo qualche messaggio. Il Belgio sarà anche una bella squadra, ma sono loro che devono aver paura dell'Italia e non il contrario. Poi un altro amico che scrive via SMS: cosa hanno vinto quelli del Belgio per essere considerati più forti dell'Italia? Non sono nulla, nemmeno come squadra di club. Oh, poi c'è Sergio da Milano che dice 3-0 per il Belgio, la giusta punizione per un calcio italiano distrutto dai club pieni di stranieri. Amico, che in Italia ci siano troppi stranieri è un dato di fatto, ma il campionato belga è un campionato in cui non gioca praticamente nessuno dei nazionali che vedremo questa sera a Lione contro l'Italia, Pierre. Quindi questo è un argomento debole. Sì, il Belgio vive la migliore generazione da 15 anni. Forse dal Belgio del 1980, che arrivò secondo proprio degli europei italiani. Nell'84 aveva grandi aspettative attorno al talento di Schifo, finì malissimo, se non sbaglio 5-0 con la Francia. Insomma, in quegli anni 80 però il Belgio era una buona squadra, perché mondiale 82, mondiale 86. Insomma, oggi è una rinascita, forse con un livello di squadra ancora superiore. Veramente una squadra molto completa, molto forte. Sì, tutta gente formata fuori, ne parlavamo anche ieri, tutta gente assolutamente formata fuori, quindi non è quello il modello cui dobbiamo rifarci, cioè non è il problema che da noi giocano gli stranieri, il problema è che loro hanno investito su dei giovani che poi sono andati fuori a completarsi e hanno più talenti di noi. Fammi coinvolgere Dario Ricci da Lione, ciao Dario. Ciao ragazzi. Così ci facciamo raccontare queste ore della vigilia, Dario. Sì, siamo proprio qua a Rue de la Bourse, quindi mi viene da chiedere anche al nostro ospite, amico Maurizio Pizzoferrato dell'agenzia Area, subito, che tra l'altro stiamo sorseggiando un'ottima birra qui in questa brasserie, quindi clima assolutamente sereno. Però ci stai dando una notizia, perché a noi in Italia risulta che da oggi è vietata la vendita degli alcolici nelle giornate di partita. Sentivo pure la notte, questa notte, sempre con questa birra, sempre stai facendo... Sì, è vero, quando ci sentiamo sempre il boccale in mano. Sì. È giusto. No, birra, al momento abbiamo... degustato in assoluta libertà, nessun rischio sanzione, ma entriamo nei temi della partita, Maurizio. Sì, no, ma comunque ci hai dato una notizia, Dario. Sì, ci dai una notizia, perché a noi qui in Italia risulta che è vietata la vendita degli alcolici. E invece tu ci dici il contrario, dai. Lo dico anche qua poi al tavolo dei belgi che stanno dietro di me, perché hanno ordinato boccali ben più grandi, quindi insomma glielo spiego io, però gli dico che me l'avete detto voi, casomai vi chiamano loro. E... dicevamo, ecco Maurizio, una vigilia che vede l'Italia sicuramente non con i favori del pronostico, però c'è ottimismo anche tra gli tifosi che abbiamo incontrato in questi minuti delle strade di Lione, no? Sì, intanto buon pomeriggio, un ottimismo che secondo me è portato più che altro dall'amore per la maglia azzurra, dalla voglia di esordire alla grande in una manifestazione importante come l'Europeo, ma non credo che ci siano dati oggettivi per essere troppo ottimisti. Parliamoci chiaro, questa è una nazionale senza qualità, senza grandi nomi, non accende la fantasia, ci stiamo, diciamo, nascondendo oppure proteggendo dietro il discorso del grande gruppo che sta a formare Antonio Conte, questo è sicuramente vero, questa grande carica del CT, Martello, il condottiero, che però insomma non scende in campo, e sappiamo che in queste manifestazioni, quando la partita si fa calda, serve anche la giocata, l'uno contro uno, la capacità di mettere la palla dentro. Ecco, questo è un problema per la nostra nazionale. Detto questo, non è che io sia così pessimista, perché poi abbiamo visto come la voglia di arrivare, siamo all'estero, in Inghilterra, la voglia di arrivare, la voglia di mangiarsi l'erba e il pallone possa avere anche la meglio sulle migliori qualità tecniche. Di fronte avremo un Belgio che non ha una grossa tradizione vincente nei grandi appuntamenti, però ha questo di farci male. Secondo me sarà importante passare in vantaggio, sì, e non il contrario. Sai Maurizio, e allargo anche a Pierluigi Pardo, sarà importante anche capire qual è il risultato migliore da fare oggi. Io ad esempio non sono così convinto che vincere questa sera, vincere magari questo girone sia strategicamente la scelta migliore per l'Italia. L'obbligo è Pier non perdere, però attenzione, ci sono incroci per la seconda fase. Io so che questi sono discorsi che a te non piacciono, ma credo siano discorsi comunque da fare. Cioè oggi, lo scrive credo Mura su Repubblica, non è decisiva, bisogna anche togliersi dalle spalle questa responsabilità. Ma sai, un Europeo a 24 squadre dove dopo la prima fase ne passano 16, quindi 2 su 3, insomma è per definizione un Europeo dove puoi anche sbagliare una partita, dove con 3 punti o con rischi seriamente di passare il turno. Quindi è chiaro che non è esattamente il match senza futuro, senza domani. Può essere utile dal punto di vista, secondo me, del cominciare a costruire quel senso di magia che è necessario. Io sono d'accordo, saluto Maurizio, sono d'accordo con lui. È chiaro che è un ottimismo, più che un ottimismo è una speranza, no? È la speranza che certi valori di forza morale, di abitudine, di esperienza, anche di tradizione del nostro calcio, anche con una squadra che è probabilmente la meno brillante degli ultimi anni, possano venire fuori e possano portarci in una competizione fatta di partite secche a fare un buon risultato. Quindi è esattamente questo. Poi la forza del Belgio, prendendo i singoli, è sicuramente superiore a noi, non c'è grande discussione. Però ecco, diciamo, un risultato positivo stasera secondo me sarebbe utile, soprattutto perché comincerebbe a costruire un percorso di autostima, una sorta di magia, un'ispirazione collettiva a una squadra che, al di là del grande carisma di Antonio Conte, arriva comunque col vento a favore, no? No, arriva certamente con qualche, insomma, con qualche dubbio di troppo. Chiedo a Dario Ricci, a Maurizio Pizzoferrato a Lione, se c'è conferma delle ultime ore sulla formazione che pare oramai delineata, quindi con Edere Pellè in attacco, con De Rossi al posto di Thiago Motta e con Darmian su una delle due fasce, e non quindi con il 3-5-2 ultra offensivo. Dario? Sì, direi che la formazione sembra proprio essere questa, e sembra anche che, insomma, la coppia saranno Giaccherini e Parolo, i due scudieri di De Rossi in questo centrocampo di lotta, e speriamo anche un po' di governo, perché poi questi qua, questi belgi, questi diavoli rossi, bisogna batterli o metterli in difficoltà anche sul piano del palleggio. Certo, si fa fatica all'idea di un Florenzi che, pur avendo mancato un paio di allenamenti per il fiocco rosa, per la nascita della figlia Penelope, sembra un uomo imprescindibile, eppure dovrebbe partire dalla panchina. Adesso che ve l'ho ridetto ad alta voce, mi sembra, ahimè, e potrebbe essere un presagio negativo, speriamo non lo sia, il centrocampo che Berzot mise in campo contro la Francia a Messico 86, e sappiamo come andava a finire. Insomma, un centrocampo che ha nel dinamismo più che nella qualità la sua cifra stilistica. Speriamo invece che quantomeno questa diga possa funzionare. Maurizio, a te piace questa nazionale, piace questo mezzo passo indietro, o questa, insomma, riflessione, come la vogliamo interpretare, di Conte? Ma che sia poi un passo indietro non l'abbiamo ancora capito, sinceramente, perché forse il fatto che lui lo prendesse per questa trazione anteriore con Candreve, del Sharawi, Zaza, forse era una nostra illusione. Conte sa quello che deve fare, sa che deve comunque imbrigliare l'avversario, nonostante abbia detto che lui non gioca in contropiede, ma gioca credendo appunto l'avversario. Penso invece a un'Italia che farà molta densità, come si dice adesso, e poi cercherà di partire in contropiede, e poi gli uomini che oggettivamente sono più in forma, mi riferisco a Zaza, pronti a subentrare in caso di flop iniziale dei due tre scelti per le ed Eder. Diciamo che è una scelta logica che non mi sorprende, quella di Conte. Che mi esalti o meno, lo vedremo dopo la partita. Sì, grazie Maurizio, grazie Dario. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie, sì. Grazie. Poi ovviamente torniamo lungo tutto il corso di questa giornata di partita a Lione con il nostro Dario Ricci. Dicevi, Pier? Che dipende dall'avversario, è una scelta chiaramente prudente, ma dovuta alla forza dell'avversario. Il Belgio è la squadra più forte del girone, contro il Belgio dobbiamo giocarcela, no? A Roma si dice che delle volte della vita sei martello, altre volte sei incudine. Certe volte devi spingere, devi forzare, devi far valere la tua superiorità, certe volte invece devi nascondere la superiorità. Sì, anche se Conte in questa settimana ci ha parlato, ci aveva detto ad esempio che sono gli altri a cambiare pelle quando incontrano l'Italia, e questo forse aveva fatto immaginare che avremmo visto un'Italia un po' differente. Pier, c'è la borsa, ci dobbiamo fermare, ci sono anche Giuseppe da Palermo, Matteo da Modena, 800 24 00 24, oppure via sms, via whatsapp 349 238 6666. Io sto aspettando i vostri pronostici e le vostre sensazioni nella giornata che porta a Italia-Belgio. Adesso la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Intanto Mario Balotelli scrive su Instagram: supportiamo questi ragazzi questa sera, Forza Italia. E i giornali si concentrino sui risultati della nazionale, non su false dicerie sulla mia vita privata, perché lo sapete, questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di Balotelli, che sarebbe rimasto coinvolto sabato notte in una rissa all'esterno di una discoteca nel Bresciano, episodio dai contorni ancora poco chiari, in cui un uomo avrebbe perso tre dita di una mano. 800 24 00 24. L'unica certezza è che Balotelli in questi europei non c'è, e dovevano essere quelli della sua maturità, Pier. Ma Giuseppe da Palermo, Giuseppe. Salve, come va? Va bene? Bene, prego Giuseppe. Senti, Senti, la storia ha insegnato sempre che le grandi imprese sono sempre state seguite, precedute anche da colonne sonore ben definite, ben precise. Sì. E noi in Italia ne abbiamo tantissime. Io sono convinto di una cosa, che una delle colonne sonore, proprio sulle sette note, che potrebbe fare al caso della nazionale italiana, potrebbe essere l'inno della Brigata Sassari, un inno straordinario che mette una carica a quelle, a quella sensazione di guerrieri che, sì, a cui auspica Antonio Conte. L'inno della Brigata Sassari, anche se Giuseppe, io poi allargo il discorso anche a Pierluigi, c'è qualcuno che ci scrive dicendo: sentire Conte parlare solo di guerrieri di battaglia invece che di calcio fa venire da piangere, Luca da Milano, cioè ci dobbiamo attaccare, sì, a questo, no? All'aspetto motivazionale. Ma ognuno mette sul piatto quello che ha, è ovvio che anche qui, forse prima di Martello e di Cudine, questo è un momento in cui dal punto di vista qualitativo non abbiamo molto, un po' perché culturalmente veramente è così, e un po' perché siamo stati anche un po' sfigati, che abbiamo perso giocatori importanti, uno su tutti è Verratti, che insomma è il leader, poteva essere il leader tecnico del nostro centrocampo. Marchisio era un giocatore che comunque con gli inserimenti poteva darci molto, quindi insomma già non avevamo tanto, abbiamo perso un altro po' e ci rimane quest'arma qui. Fortunatamente è una competizione breve, fortunatamente è una competizione di partite nelle quali puoi vincere l'europeo oppure vincendo un paio di partite basta. Sì, tu dici, insomma, l'ha vinto la Danimarca, cioè, l'ha vinto la Grecia perché non possiamo vincerlo noi, anche Messi? Detto questo è ovvio qua, che siamo meno forti di altri, io credo che la nostra dimensione oggi sia intorno all'ottavo decimo posto in Europa, non meglio, quindi per una squadra che è tra l'ottavo e il decimo posto in Europa, io credo che vincere l'europeo sia complicato. Però è un tipo di formula che ci può aiutare, e la nostra arma è quella, è un po' anche il DNA di Conte, poi Conte alla Juve ha giocato anche del bel calcio. Sì, ma aveva anche una squadra decisamente più forte di questa, certo. Perché poi va bene le motivazioni, ma si vince con la qualità, come è capitato ad esempio al nostro prossimo ospite. Attacca ancora il Pescara, attenzione a Verde che prova a liberarsi per il tiro, salta due avversari, va in porta, rete! Ancora Pescara, l'esultanza di tutto lo stadio, della panchina. Verre per Torreira, poi Pasquato, in area di rigore, rovesciata e gol! E gol strepitoso, gol di Lapadula, da non credere, Gianluca Lapadula, in rovesciata! Sul sinistro Lapadula, Lapadula! E sono 30! 2-0! 30 in campionato! Stagione straordinaria per il 10 del Pescara! Lapadula 30, Pescara 2! Senti, qualità ne aveva tanta il Pescara di Massimo Oddo, che saluto. Ciao Massimo! Buongiorno a tutti! Perché Massimo, va bene tutta questa retorica emotiva della squadra di guerrieri camaleonti capaci di cambiare, però poi serve la qualità. Poi ti dico cosa ha detto il tuo amico Rino Gattuso, che ieri anche lui ha vissuto la sua giornata di promozione. Ma tu che idea hai di questo approccio della nazionale a questo europeo? Ma certamente in questo momento partiamo da outside, sicuramente non passiamo da favoriti, perché il momento storico di questa Italia ci racconta che non è più l'Italia di una volta, dove ci sono talenti incredibili. Se andiamo a pensare alle varie nazionali che hanno vinto titoli in passato, ci saltano subito immediatamente all'occhio determinati giocatori fin dalla notte dei tempi. In questo momento, se tu vai a pensare alla nazionale, probabilmente non ti saltano in mente quei nomi altisonanti, però è anche vero che ci sono tante verità. Sicuramente non si vince solo con la qualità, sicuramente la qualità serve a vincere, si può vincere in tanti modi. Io credo che la bravura di un allenatore sia anche quella di sfruttare quelle che sono le caratteristiche di questa squadra in questo momento. In questo momento sicuramente è un'Italia che deve puntare soprattutto sulla sua difesa, sulla sua fase difensiva, per poi poter colpire, ecco. Sai, Pier, cosa ha detto Gattuso? Ha detto: anche a noi nel 2006 dicevano che eravamo vecchi, adoriamo queste polemiche, e vedrete che l'Italia farà bene. Però secondo me il parallelismo col 2006 ci sta poco, Pier. Il parallelismo tecnico non è un ci po' sta, una suggestione. Quella squadra era molto più forte di questa, però c'è un parallelismo secondo me di di spirito, di spalle al muro, di polemiche, di sensazione di essere underdog, come dicono gli inglesi, cioè sfavoriti. Fra l'altro è curioso che insomma i due allenatori che questi playoff hanno messo in evidenza siano due degli eroi del 2016 e anche due degli eroi del Milan, poi per esempio di Atene del 2007, ovviamente del 2016. Cioè, non so se hai dato un'occhiata al tuo amico Gattuso nel playoff oppure se ti sei semplicemente rilassato. Massimo. Ho visto la partita, L'hai visto bello carico, bello carico. Beh, vabbè, Marino ha sempre avuto questo carattere, un trascinatore, uno certamente che punta su valori importanti che ci devono essere dentro uno spogliatoio, sicuramente avrà formato un grande gruppo, il grande gruppo si è visto nei momenti di difficoltà, ieri giocava a mio avviso contro una squadra che sulla carta era non di poco superiore, però nonostante questo ha messo in campo caratteristiche diverse facendolo molto bene portando questa squadra al successo. Ma a proposito di capopopolo in panchina, secondo te Conte può ricordare un po' Lippi? Ma io credo che Conte sia in assoluto uno dei migliori allenatori al mondo, ma in assoluto, quindi sicuramente è un valore aggiunto. Il valore aggiunto che può dare Conte, soprattutto in questa squadra, è un valore aggiunto ancora più grande, perché laddove non ci sono magari grandissime individualità, lui punta tutto sul gruppo, ha sempre puntato tutto sul gruppo e sicuramente saprà far valere appunto questo tipo di gruppo, questi ragazzi che ha a disposizione. Pierre. E che succede a Pescara quindi? Adesso avete festeggiato la prossima stagione, tu, la Padula, che fate? Ma a Pescara succede che, vabbè, per quanto mi riguarda, io insomma ho sempre detto che il mio sogno era portare questa squadra in Serie A, la squadra della mia città, e il mio secondo sogno è quello di allenarla in Serie A. Ovviamente come tutti gli allenatori, tutti quanti vorrebbero avere delle garanzie, delle certezze. In questo momento credo che l'unica maniera per poter continuare un discorso, per provare a salvarsi in Serie A, è quello di cercare di mantenere i migliori elementi. Sul piatto della bilancia certamente abbiamo messo il fatto che probabilmente potremmo perdere la Padula, però per quanto riguarda tutti gli altri mi piacerebbe mantenerli. Intanto è passata la prima settimana, il presidente Sebastiani non te li ha ancora venduti, è già un passo avanti. Dicevi Pier, poi abbiamo il traffico. Il tuo consiglio al ragazzo, perché è chiaro che le qualità sono enormi e le offerte sono interessanti, non ci perdiamo in giro, è ovvio che ci sono grandi club, ci sono prospettive molto, molto luminose, però forse dopo una stagione del genere trovare una squadra che sicuramente ti fa giocare e ti considera il punto fermo potrebbe essere pure sfizioso per uno come lui. Ma sarebbe fondamentale, è ovvio, lui viene da due grandissime stagioni, una in C, una in B, adesso si deve confermare in A, e per confermarti devi avere le chance di poterti confermare, quindi è indubbio che lui debba scegliere in base a chi ti dà questo tipo di continuità. Certo, nessuno ti garantisce il posto, però ci sono squadre che puntano di più su di te, sono squadre cui ti mettono in concorrenza con altri, quindi sarà una scelta dura, però. E il consiglio che gli posso dare io è quello di innanzitutto parlare con l'allenatore che ti vuole avere, perché credo che parlare con l'allenatore ti schiarisce bene le idee. Ma lui è pronto per qualunque palcoscenico in Serie A o c'è ancora bisogno di un po' di lavoro? Anche se non è giovanissimo. No, ma qualitativamente se noi andiamo a scomporre il ragazzo, lui è un giocatore di alto livello, di alto profilo, non di basso profilo, di medio profilo, è sicuramente la grande squadra, poi però c'è l'impatto con la Serie A, questo è sempre comunque un punto interrogativo. Sì, sempre difficile. Massimo, se hai un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ti salutiamo per bene, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Dalle 15 vi racconteremo anche Spagna-Repubblica Ceca, che è la prima delle tre partite di questa quarta giornata del campionato europeo. Tanto oggi si è presentato Mihajlovic al Torino. Sarà un toro affamato, orgoglio, lacrime e sudore, farò di tutto per portarlo in Europa. Mihajlovic, ex allenatore del Milan. Mi piacerebbe chiedere, Pierluigi Pardo, a Massimo Oddo, se lui, così come magari Gattuso, così come tanti altri ex milanisti che si stanno affermando da allenatori, hanno magari nel cuore il sogno, l'obiettivo un giorno di tornare a Milano e sedersi su quella panchina. Massimo. Beh, vabbè, ma credo che sia il sogno di qualsiasi allenatore che siede su una qualsiasi panchina del mondo, allenare una squadra come il Milan, quindi non è che è un obiettivo solo mio, è un obiettivo di tutti. Però c'è una generazione che sta crescendo, abbiamo fatto due nomi, tu Gattuso. Ma sì, ma il fatto che entrambi abbiamo giocato nel Milan credo che sia del tutto una casualità, cioè insomma non è che perché hai giocato nel Milan diventi allenatore, certamente la casualità non può essere che magari queste generazioni che stanno venendo fuori magari hanno una importante carriera alle spalle, ed è indubbio che quando fai allenatore ci sono due tipi di esperienze, che sono quelle dirette e indirette, quelle dirette da allenatore che fai e quelle indirette che sono quelle che ti tengono dal campo, dalla tua carriera, da quello che hai fatto, quindi è un qualcosa che credo che ti possa aiutare tantissimo, soprattutto nei rapporti, nel capire i momenti, nel capire la testa dei giocatori, e non è da sottovalutare. Anche nel capire gli ambienti, Massimo. Assolutamente sì. Lo salutiamo, Pier? Lo lasciamo alle vacanze? Sì, io ho una curiosità finale, vai. Che è legata a quella famosa scena con Serte che ha fatto il giro d'Italia e del mondo. Devo dire che Trapani-Pescara era un colpo al cuore, perché veramente sono due amici e due persone talmente per bene che veramente avremmo voluto due promozioni, credo, in tanti. Se ti aspettavi tutto questo, no? Un gesto in fondo di una grande normalità, che però è diventato un gesto simbolicamente molto, molto importante, se ti aspettavi tutto questo clamore? Beh, non è un bel segno questo, se devo essere sincero, perché il fatto che sia sottolineato un gesto del genere è una cosa non bella, nel senso che io faccio sport da quando ho 5 anni e mi hanno sempre insegnato che nello sport ci sono i vinti, i vincitori, la prima cosa è sempre quello di onorare i vinti, e io ho fatto un gesto del tutto normale, al di là che lui fosse stato il mio ultimo allenatore, che avevo un bel rapporto e quant'altro, ma chiunque ci fosse stato lo avrei fatto, un po' perché ci sono passato l'anno scorso, un po' perché lo sport, il valore dello sport mi hanno insegnato questo. Io comunque in tutte le partite di questo campionato e da quando alleno, la prima cosa che faccio è andare a dare la mano allenatore e complimentarmi poi al di là del risultato. È diventata un po' la cartolina di quella serata. Grazie Massimo. Grazie a ciao. Voi, buongiorno a tutti. Grazie Massimo Oddo. Poi te lo faccio sentire Gattuso, Pier. Prima facciamo sì. Matteo da Modena però. Matteo. Sì, salve. Eccoci. Innanzitutto volevo sottolineare il gesto di Oddo, che è da far vedere e rivedere, perché non è così scontato. Poi per quanto riguarda l'Italia, io non vedo questo grande sfavoritismo, nel senso che abbiamo l'allenatore migliore di tutti, il portiere migliore di tutti, difesa granitica. Sì, e lì ci fermiamo però, Matteo. Sì, ma per esempio questo Belgio tanto pubblicizzato, è vero, là davanti vedo che era Lukaku, che sì, è una buona punta, ma non mi sembra un fenomeno come nemmeno gli altri che hanno, cioè non mi sembra questa disparità. Poi è chiaro, a noi manca la punta, il campione là davanti. Sì, non dimentichiamoci che il Belgio a novembre ci ha battuto 3-1, tra l'altro in una serata in cui l'Italia di Conte ha giocato una delle migliori partite, però non è bastato. Pier, c'è anche un amico sì. Che scrive: la qualità c'era, Jorginho, Vasquez, Berardi, Giovinco, però Conte ha scelto di lasciarli tutti a casa. Questa infatti è una cosa che volevo chiedere anche a Massimo, ma di mente perché sono bollito essenzialmente, no? E questo è un po' un tema, cioè, sicuramente poi alla fine, l'abbiamo detto nei giorni dell'ufficialità dei 23, qualche scelta per avere un po' più di qualità e un po' meno di quantità l'avrebbe potuta fare Buonaventura, certamente Jorginho, forse non l'ha fatta perché quella qualità, con tutto il rispetto, nella sua testa non gli cambiava comunque troppo la fisionomia della squadra, cioè per capirsi non è che ha lasciato Messi a casa, con tutto rispetto per Buonaventura e per Jorginho, e forse allora a quel punto ha scelto di esasperare in positivo invece una caratteristica che è quella della lotta, del sudore, della capacità di distruggere il gioco degli avversari, e ha scelto una squadra più fisica, questa mi sembra la filosofia. Poi è ovvio che Bonaventura, per quello che ha fatto il campionato, avrebbe certamente meritato la chiamata pure, a questo europeo. Non c'è da discutere di tutto. Ma tanto tireremo la linea questa sera, a partire da questa sera. Ti leggo qualche pronostico. Non abbiamo il centrocampo, perderemo 2-1. Il nostro gol sarà di Pellè, un altro amico, Gianni da Villaricca. La differenza la farà il Belgio a centrocampo e sulle fasce, 3-1 per il Belgio. Poi un altro amico che suggerisce a Conte di giocare con il 3-4-3 e non con il 3-5-2. Poi Marco: stasera guardo il basket perché amo troppo la nazionale per sopportare lo scempio che ne farà il Belgio. Pareggio 1-1 Matteo. Poi un altro amico che scrive: la cabala dice Italia. Un altro che ricorda che anche il Brasile è stato eliminato questa notte dalla Copa America, quindi non sempre è sufficiente avere i campioni per andare avanti. Walter dalla provincia di Forlì e Cesena. Walter. Ah, buongiorno, saluto tutti gli amici, anche il mister Otto, non so se è ancora... No, non c'è, vai al però, Walter. Comunque, senta, ascoltando voi, certamente vado a giocare il 3-1 per il Belgio, ma io la penso diversamente. Ma cosa ha fatto questo Belgio per essere... Cosa ha fatto questo Belgio, Pier? Almeno, un attimo solo, sì. Se mi permettete, scusatemi. Noi siamo stati semifinalisti, finalmente 4 anni fa, siamo l'Italia. Io non vedo questa disperazione, cioè che avete messo nella... No, ma noi non vogliamo mettere disperazione, Walter, perdonaci. Noi diciamo le cose più o meno come le leggono in tanti in questa vigilia. Pier, abbiamo 30 secondi. Noi eravamo l'Italia anche contro la Slovacchia nel 2010, siamo andati a casa. Guarda, però, io sono ottimista un po' per purtroppo per mentalità mia, su mille cose sono ottimista, ma anche su questa nazionale penso, giocando ti direi 1-1 stasera. Credo che siamo meno forti, ma siamo rognosi, quindi ho delle quindi a quello ci attacchiamo positive. Per essere ottimisti, però siamo meno forti, si può dire. Ciao Pier. Ciao, domani. Poi dopo il GR delle 14 abbiamo tempo di parlare di questa nazionale. Noi invece torniamo dopo il GR delle 15. 800 24 00 24. Un amico che scrive: il Belgio è modesto, vinciamo facile. Allora, mettiamo un po' di ottimismo, vinciamo facile. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Nasconderlo, c'è grande emozione, almeno da parte mia c'è grande emozione, perché sono manifestazioni importanti che personalmente ho vissuto da calciatore, adesso la vivo da commissario tecnico. È un momento sicuramente di grande orgoglio, di grande soddisfazione, ma anche di grande responsabilità da questo punto di vista. Sono momenti nei quali sei martello e altri in cui devi essere incudine. E questo qua per noi è il momento in cui c'è da essere incudine, ma non significa che dentro ci sentiamo vittime sacrificali, anzi abbiamo una grande fortuna, che è quella che oltre alla carta il vero valore e il vero giudizio lo darà il campo. Abbiamo ancora mezz'ora per i vostri pronostici. 800 24 00 24 oppure via sms e whatsapp 349 238 6666. Scrive un amico: Mirko da Vicenza, tra noi e il Belgio c'è la stessa differenza che c'è fra gli stracci e la seta. Basta con questa storia che il Belgio è più forte dell'Italia. Poi un altro amico: Italia-Belgio 3-0, segna Pellè. Poi insomma ci sono tanti pronostici. C'è chi si lamenta per il fatto che giocherà De Rossi al posto di Thiago Motta, fatto fuori per le polemiche dei tifosi. C'è chi accusa Conte di aver portato in nazionale i soliti raccomandati della Juventus, ma del resto insomma cosa altro doveva portare Conte? Magari un po' più di qualità a centrocampo, ma soprattutto dietro il blocco della Juve è certamente il blocco migliore. 9 minuti e 40, 0-0 tra Spagna e Repubblica Ceca, una punizione per la Repubblica Ceca, un'occasione per Morata che però era in posizione di fuorigioco. Comincia anche l'avventura della Spagna in questo europeo. Pino dalla provincia di Messina. Pino. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori, in particolare non me ne vogliate al mitico Pier. No, però non c'è, ma non te ne vogliamo. Prego. Va bene, ok. Niente, io ho l'impressione che stiano mettendo un pochino le mani avanti, cioè nel senso, dalle dichiarazioni che sento di ultima, quella che avete mandato ora, del mister Conte, di Buffon. Cioè io credo che l'Italia, a prescindere dal fatto che possa avere, diciamo così, elementi non sicuramente l'assenza di Verratti, l'assenza di del centrocampista Marchisio della Juve, sicuramente incidono. Dico, sotto questo aspetto non vorrei che mettessero le mani avanti per dire noi siamo qua, certamente non siamo i favoriti, possiamo anche perdere. Io credo che l'Italia abbia la cultura, la storia, le tradizioni per poter vincere. Certamente sapere che l'allenatore, dopo finita la partita, finita gli europei, non è più l'allenatore della nazionale, non è che possa portare grandi vantaggi. Io faccio calcio da 30 anni. C'è anche un amico, Pino, che scrive: faccio adesso il mio pronostico, questa è l'Italia di Conte, sottolineo di Conte, vincerà l'europeo, perché Conte è il vero valore aggiunto di questa nazionale, Pino. Io spero che sia così, spero che non l'effetto Conte che va al Chelsea non possa, diciamo così, smontare qualche convinzione. Perché a me, non sembra che sia questo il rischio, anzi mi sembra che Conte stia anche in maniera molto plateale cercando di far capire come sia concentrato solo su questo europeo e solo su questa avventura. Saluto Nando Orsi, ciao Nando. Ah, buongiorno a voi. Non so se si può star qui ancora 7 ore da Italia-Belgio a parlare del fatto che Conte alla fine dell'europeo andrà al Chelsea, si sa già tutto. No, io penso invece che Conte a tutto pensi meno che al Chelsea in questo momento, anche perché ne vale della sua carriera, della sua ambizione, della sua credibilità. Quindi secondo il mio punto di vista il fattore Conte al Chelsea conta molto poco. Il problema della nazionale secondo me è che tecnicamente non è straordinaria, quindi bisognerà trovare altre qualità che Conte sicuramente può dare, perché insomma noi sappiamo Conte che è un allenatore che praticamente ti martella dalla mattina alla sera e quindi vuole, al di là dello schema offensivo, dello schema tecnico, dello schema tattico, vuole una partita di grande intensità. Ecco, su questo che l'Italia si deve basare, perché poi a livello tecnico dobbiamo sopperire a certe situazioni che non ci sono. Sì, siamo quelli che è. Noi possiamo serenamente dire che il Belgio è tecnicamente superiore a noi. Sì. E poi vedremo come va stasera. Chi ti è piaciuto di più fin qui? Stiamo vedendo i primi minuti della Spagna, 0-0, ancora poche indicazioni. Di squadra, sì. Di giocatori. Ma di squadra, ad esempio, ieri sera la Germania ha deluso. Sì, di squadra la Croazia. Devo dire che vedendo queste prime partite, vedendo per esempio che la Francia è una delle favorite, la Germania pure, è ovvio che è la prima partita, quindi ci sono anche altri fattori come l'emozione e tutto il resto. Però vedendo le altre, io dico che l'Italia ci può stare, se la può giocare benissimo, conoscendo le qualità della squadra e le qualità di Conte. Quindi io dico che è un campionato europeo dove queste 7 partite, se le giochi con l'intensità e un po' di fortuna, condizione fisica, puoi andare avanti. Poi dopo è ovvio che può succedere di tutto, ma comunque, vista adesso quelle squadre che ci sono, l'Italia secondo me ci può stare bene. Sì, c'è un grande equilibrio. Sì. Quello della Germania ieri è stata la prima partita, la settima, vinta con più di un gol di scarto. Il gol è arrivato al 92esimo, peraltro. Sono mancati portieri e centravanti fino adesso. Come giocatore invece chi ti è piaciuto di più? Beh, insomma, dire Modric è troppo semplice, perché veramente si è visto un giocatore di statura mondiale, perché al di là della posizione che lui ha in mezzo al campo è un giocatore che tatticamente è di un'intelligenza infinita. Ha recuperato una palla prefiltrante al limite dell'area come se fosse un difensore centrale, in maniera incredibile, proprio con l'intelligenza tattica. Ha fatto un gran gol, ha servito compagni da assist, si propone sullo spazio, quando un terzino non c'è dalla sua parte ci va lui a prendere, quindi un giocatore a tutto tondo che sicuramente alla Croazia fa veramente veramente tanto comodo, al di là delle qualità tecniche. Poi alla Croazia, io ripeto, chi vince il nostro girone gioca contro la seconda del gruppo di Spagna e Croazia, potrebbe essere la Croazia, e non è detto che sia un vantaggio vincere il nostro girone, anche perché si finisce nella parte bassa del tabellone, dove nel quarto potrebbe esserci la Germania. E questo è il discorso che facevamo all'inizio. Oggi qual è il risultato perfetto? Prima di salutare Nando Orsi, abbiamo visto Rooney alla Pirlo. Sì. Io non so che impressione ti ha fatto. A me tanta, A me, anche a me mi ha fatto una grande impressione, ma Hodgson insomma ci ha abituato un po' a questo tipo di cose. L'Inghilterra secondo me ha grandissime potenzialità, spesso inespresse. Ora non so se viene dalla condizione, dalla conduzione tecnica, oppure dal fatto che l'Inghilterra, quando ci sono questi i mondiali e gli europei, non so se si emoziona, se non riesce a entrare nel meccanismo, se forse fanno troppe partite in un anno, ne fanno 60-70. Il campionato inglese, campionato lunghissimo, non c'ha soltanto il campionato ma anche le due coppe, quindi campionato difficile e faticoso, però arriva a questi momenti dove poi non rende, e vedere Rooney là, devo dire la verità, un po' mi dispiace, perché noi lo conosciamo come un attaccante straordinario, lì davanti forse avrebbe una valenza diversa. Sì, certamente. Grazie Nando. Grazie a voi, ciao. Grazie Nando Orsi. Intanto Spagna vicinissima al vantaggio con Morata, conclusione spaccata a 2 metri dalla linea di porta e parata di Cech. 0-0 Spagna-Repubblica Ceca. Ci sono Morgan da Modena, Luca d'Ancona, Nicola dalla provincia di Napoli. Prima però vi dobbiamo raccontare della mano de Adios. Città, entra in area, Polo mette al centro, arriva il gol con la mano, dice Alisson, da parte del nuovo entrato Rui Diaz. Potrebbe essere un gol storico. Questa notte altro gradino della discesa del Brasile nel mondo dei normali, sconfitta 1-0 dal Perù con gol di mano di Rui Diaz. La mano de adios. Adios alla Copa America per il Brasile, che non riesce a riprendersi dopo il Mineiraso del 2014, l'1-7 contro la Germania nei mondiali, l'anno scorso l'eliminazione dal Paraguay. Nella Copa America, questa volta il KO dal Perù. Il Brasile non usciva dal 1987 nella prima fase della Copa America e da 31 anni non perdeva contro il Perù, il Brasile. Morgan da Modena, Morgan. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. Io avevo due cose da dire. La prima è sull'Italia, che sento che c'è molta euforia e la gente è molto contenta di questa nazionale, ma secondo me stasera ci asfaltano, anche perché è la nazionale più brutta degli ultimi 40 anni. Sì. E l'altra cosa che volevo dire è sul calcio italiano. Un po', che una un po' volta... di ottimismo, Morgan, un po' di ottimismo. Sono un po' differente da tutti gli altri, anche perché una nazionale così, con i nomi che abbiamo, non so dove andiamo. Non credo che Conte vada in campo e ci possa mettere la sua grinta, perché sento dire che Conte fa i miracoli, ma in campo ci vanno i giocatori. No, però l'organizzazione, ad esempio difensiva, sì, quello può metterla. L'organizzazione difensiva può metterla, però è la stessa organizzazione che ha preso 4 pappine dalla Spagna 4 anni fa e viceversa, quindi... Sì, in altre condizioni, a parte che il CT di quella nazionale era un altro e non era Antonio Conte, e tra l'altro comunque citiamo una nazionale che ha fatto un cammino straordinario, quello dell'europeo, e poi è arrivata a quella finale in condizioni fisiche non sufficienti per giocare contro la Spagna, che è stata per almeno un lustro e mezzo la nazionale di riferimento di tutto il calcio mondiale. Io credo che se c'è una cosa a cui noi possiamo attaccarci oggi è proprio il pragmatismo e l'organizzazione di Conte per fare partita contro una nazionale che dal punto di vista tecnico è certamente superiore. Luca d'Ancona, Luca. Sì, grazie della convocazione. Eccoci. Praticamente alla luce di quello che si diceva prima, se è il miglior risultato... vincere, non sì. vincere. Cosa ci conviene fare? No, più che altro pensavo che magari Conte possa aver fatto questa formazione schierando Parolo al centrocampo ed Eder, Pellè, così proprio apposta per dare una chance iniziale e magari eventualmente se un risultato fosse negativo non perdere niente, ecco, Non so cosa ne pensate. No, ma io credo che questa sera l'impatto psicologico è importantissimo. Cioè, guai a perdere questa sera. Ci siamo già passati nel 2004. Arrivare alla seconda partita a zero punti o comunque in condizione spalle al muro significa poi essere esposti a qualunque gol, a qualunque problema, a qualunque colpo della sfortuna. Però non è detto che necessariamente vincere questa sera sia il risultato migliore per l'Italia. Tutto qui, anche avendo visto la Croazia ieri e anche la Spagna che sta in questo momento dominando, ventesimo contro la Repubblica Ceca, 0-0, ma è una Spagna che sembra ben più solida di quella di due anni fa al Mondiale. Nicola dalla provincia di Napoli. Nicola. Salve, grazie per lo spazio. Grazie a te. Allora, per quanto riguarda, sono d'accordo con tifoso di prima, perché per quanto riguarda la nazionale Conte un po', diciamo, si è messo un po' tutto il popolo contro, perché prima parlava di calciatori, miglior calciatori più forma nel campionato per la convocazione, e poi mi convoca Sturaro. Per carità, Sturaro è un ottimo calciatore, Thiago Motta ex calciatore, e non convoca Giorginio, sì, che però è stato il miglior calciatore. Nicola, poi ti faccio concludere. Per carità, Thiago Motta, ex calciatore. Thiago Motta è, insieme a Jorginho, il centrocampista che ha completato più passaggi positivi in questa stagione, giocando nel Paris Saint-Germain, non giocando in quarta serie. Prego, Nicola. Non è un campionato livellato, stiamo parlando della Liga Spagnola, sì, del campionato inglese. Campionato francese. Sì, però sai, Nicola, uno ti potrebbe rispondere che Thiago Motta ha un'esperienza europea che Jorginho non ha. Poi io l'avrei portato Jorginho, Nicola? No, per carità, anche per quanto riguarda l'attacco, vai a convocare Eder, che non ha fatto un gol nell'Inter, se non mi sbaglio uno ne ha fatto, e Gabbiadini, che aveva un mostro sacro come Higuain avanti, e c'è la media di un gol a partita con il minutaggio alla mano, se andiamo a vedere. Questa è la mia, sempre Forza Italia, Forza Napoli, complimenti per la trasmissione. Grazie Nicola. Andrea dalla provincia di Gorizia, Andrea. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Ciao. Prima di tutto, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E due considerazioni veloci. Viste le partite, viste soprattutto le squadre blasonate, fino adesso almeno io non ho visto dei mostri. La Francia ha fatto fatica, l'Inghilterra ha fatto fatica, ieri la Germania non mi ha detto praticamente niente. L'unica squadra che ho visto giocare bene è la Croazia. Dopodiché volevo dire, ma a metà campo, da che Pirlo è stato escluso giustamente perché nella Major League sta arrancando, portare Totti non era possibile? Totti nella metà campo, Totti al massimo avrebbe potuto essere il 23esimo per fare gli ultimi minuti, ma in attacco. Totti è un giocatore che dal punto di vista del dinamismo credo non abbia più nulla da dare dal punto di vista del dinamismo, e credo che avrebbe fatto discutere anche una sua chiamata da 23esimo per vedere se poteva regalare qualche magia come ha fatto nella parte finale della stagione con la maglia della Roma. Grazie comunque. Formula 1. Col senno di poi no, in quel momento lì, visto il degrado che avevano le gomme, sì. Però è andata così, non puoi essere soddisfatto, però devi guardare avanti. C'è la consapevolezza però che la velocità c'è, questa vicina alle Mercedes, vicinissimi? Indipendentemente dalla velocità ci deve essere la vittoria, quello è importante. Questo è Lunedì dei rimpianti anche per la Ferrari. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, ha ragione Vettel a dire comunque bisogna difendere una scelta che era stata fatta prima, o abbiamo ragione tutti noi a dire che ora che la Ferrari la smetta di buttare via quelle poche occasioni che ha per vincere con questione di strategia? La strategia non era completamente assurda. Il problema è che sono stati fatti dei calcoli sbagliati. Si pensava in un degrado delle gomme di Hamilton repentino, invece se tu vai a vedere poi Vettel ha continuato a guadagnare, ma guadagnava millesimi, guadagnava decimi al massimo, è riuscito ad arrivare al massimo a 4 secondi di distacco dai 7 che aveva quando è rientrato in pista. Quindi sono stati sbagliati evidentemente dei calcoli, però non è detto che la Ferrari restando in pista avrebbe vinto quella gara. Certo, secondo me qualche chance avrebbe avuta, perché poi le due prestazioni pur con 13 giri di differenza tra le due, i due set di gomme, sono state molto simili le prestazioni di Hamilton e di Vettel. Certo che nella storia della Formula 1 solitamente chi è in testa difficilmente decide di cambiare tattica e di fare una sosta in più, se lo fa perché non si fida della macchina che ha a disposizione e quindi cerca di inventarsi qualcosa di alternativo. La sensazione è che la Ferrari non si fidasse ancora delle prestazioni ritrovate della sua vettura, che sicuramente sono migliorate. In Canada la Ferrari non è mai stata così vicina alla Mercedes come in Canada. E quindi questa mancanza di fiducia nelle prestazioni della sua vettura l'ha portata a cercare il jolly, a cercare di sparigliare il gioco. E in più forse un po' di timore di essere ancora inferiori alla Mercedes, che è un peccato, direttore, perché è arrivato nel weekend in cui invece per la prima volta forse in tutta la stagione Sebastian Vettel è stato davvero vicino alle Mercedes. Assolutamente. Poi la cosa che lascia ancora di più perplessi è il fatto che la stessa tattica sia stata usata per tutti e due i piloti. Solitamente quando si va a cercare una tattica alternativa la si spariglia, la si fa con uno soltanto dei due, invece così Raikkonen non era in un grande weekend, però così è sparito completamente dalla circolazione. Resterà sempre questo rammarico, dice, ma se non avessimo fatto cosa quella sarebbe sosta in più, saremmo riusciti a vincere la gara oppure no, oppure avremmo costretto a provarci Hamilton a fare la doppia sosta. Certo che nella storia della Formula 1 solitamente chi è davanti non va a scegliere di fare una sosta in più se non nel caso in cui il margine cambiando set di gomme è enorme. Ieri tutti i calcoli, lo stesso Toto Wolff l'ha riconosciuto, parlavano di 5 secondi con la tattica diversa, quindi proprio di un'inezia. Insomma, io ricordo ai tempi di Schumacher, Ross Brawn si era inventato un Gran Premio d'Ungheria con una sosta in più di tutti gli altri, ma Schumacher aveva fatto praticamente delle lunghe sessioni da qualifica spingendo come un matto per tutti i 4 stint, cosa che ieri evidentemente non era possibile, per cui c'è stato qualche errore di valutazione nel famoso remote garage di Maranello che ha consigliato gli uomini del muretto di prendere questa scelta quando è entrata in campo una safety car, che poi è rimasta anche troppo poco per consentire alla Ferrari di guadagnare qualcosina in più rispetto di dare un senso a quella strategia. Sì. Direttore, c'è Luca dalla provincia di Forlì Cesena, lo sentiamo. Luca. Sì, grazie, buon pomeriggio. Dai. Due considerazioni, volevo sottolineare un Vettel che nel dopogara si è comportato da leader assoluto, compattando ancora attorno a sé la squadra, dove poteva magari lasciare emergere un po' di malcontenti, invece ha detto io, anche ammesso che potesse essere anche vero il contrario. Sì, diverso da quello che eravamo abituati alla Ferrari con Alonso, con l'ultimo Alonso, esatto, almeno. Di schumacheriana memoria. E poi dice un'altra cosa, come ha detto già il direttore, nella domenica in cui da 7 gare dall'inizio del campionato ti trovi per la prima volta in testa alla prima curva, dopo che hai sempre detto la qualifica è il nostro pecchio, se partiamo davanti noi siamo difficili da superare, cedi l'inerzia tattica della gara. Ma lo dice anche un amico via WhatsApp, direttore, la Ferrari non è più abituata a vincere, le è venuto un po' il braccino. Diciamo che l'anno scorso 3 vittorie ci avevano fatto sperare che la Ferrari fosse tornata sulla retta via. Quest'anno sono state troppe le promesse della vigilia e adesso io credo che sulla squadra ci sia una pressione assurda che può portare anche a fare questi errori per questa ricerca disperata della vittoria. Io continuo a ripetere che il presidente ha delle colpe enormi in quello che sta succedendo, perché è lui che ha messo troppa pressione su questa squadra, raccontando di una Ferrari che avrebbe lottato per vincere il mondiale, avrebbe potuto vincere dalla prima gara in poi, mentre il distacco dalla Mercedes c'era ancora ed è un distacco che abbiamo visto nelle prime 6 gare confermarsi in pista. Ieri in Canada abbiamo visto un distacco inferiore alle altre gare. Credo che il passo avanti di motore sia stato veramente importante dal punto di vista delle prestazioni e tocchiamo ferro, mi sembra anche di poterlo dire dall'affidabilità, almeno questo è quello che raccontano a Maranello. Bisogna vedere su piste più importanti per il telaio cosa combinerà questa Ferrari, però mi sembra che il gap sia sicuramente diminuito. Però sì, c'è gap sicuramente diminuito, però come scrive un nostro amico, è il muretto del pianto, quello della Ferrari. Stai dando. Grazie direttore, siamo in chiusura, grazie a Umberto Zappelloni, il muretto del pianto, sperando che stasera non ci sia a Lione l'altro muro del pianto, ma noi siamo ottimisti e vi aspettiamo domani, dopo il GR delle 14, richiameremo anche tutti i gufi, come ci suggerisce un amico. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binder in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao! Saluti!